Per 2 giorni. Vinca raccontava Silvia. Non ho creduto che fosse vero. Non era possibile. Come potevo credere? Trovavo possibile che morisse al fronte. Ma che si sposasse? No, questo mai. Poi ho chiesto a Pilar. Chi è lei? Non so. Sol de Montalvo si chiama, una del suo paese. E allora ho capito che era vero, sai. Quella era sempre rimasta, dunque, nella sua vita. Una piccola storia la nostra. Non l'aveva toccata. Era vero. Parlava come un'allucinata. Silvia l'aveva trovata seduta per terra in vestaglia, davanti a un mobiletto dal quale traeva le lettere di Luis per rileggerle. Non si sapeva che cosa dirle per confortarla. Se Luis fosse morto sarebbe stato più facile, assai più facile, trovare parole di consolazione, poiché alla morte il loro amore sarebbe sopravvissuto. Le si sarebbe potuto dire che era stata una cosa bella, immensa. Ciò avrebbe potuto darle forza, ma questa pena era ben più grande. Era stata Pilar a chiamare Silvia per telefono. Vinca è così calma che abbiamo paura, la mamma e io, tanta paura. Siamo sotto un incubo, venga. Sono tanto buone, Vinca diceva. Mi portano il brodo caldo, come se con quello potessi guarire. È strano, quando si soffre moralmente, il fisico acquista per gli altri un'importanza enorme ed è naturale, in fondo. Cercano di curare la sola cosa curabile. Mi mettono perfino i cuscini dietro la schiena. Poi mostrava le lettere. Vedi? Tutte sue. Questa è l'ultima. 32 giorni fa. 10 giorni prima di sposare. Adesso te la traduco. Dunque, mi amor. Amore mio. Sì, ma questo non ha importanza. E scorreva con lo sguardo le righe. Ecco, questo, ecco, senti, volverò, tornerò. Dice. Presto, forse non andrò di nuovo al fronte. Ecco, senti qui, qualunque cosa accada, pensa che ti amo. Adesso capisco che cosa voleva dire. Non mi ha scritto più dopo questa. Ha sposato il 3 gennaio. Chissà che facevo io quel giorno. Non è vero che si sentono certe cose. Non c'è il tuffo del sangue. Silvia, seduta, guardava Vinca rannicchiata per terra, livida di freddo, le labbra bianche. Negli occhi si vedeva come un gran buco nero. Ed un tratto il viso di lei si fuse in un pianto senza singhiozzo. Le lacrime le scorrevano sul viso contratto, inondandolo silenziosamente. Mise la testa sui ginocchi di Silvia e disse: È terribile, è terribile. Parlava con voce spezzata. È atroce, Silvia. Tu non sai, non puoi capire. Sarebbe meglio che morissi. Che vivo a fare? L'amica le accarezzava i capelli, commossa, e intanto ricordava di aver udito le stesse parole dalla moglie di Belluzzi il giorno di quella disgustosa scena, e perciò la pregava: taci, taci. Ma quella insisteva, singhiozzando: tu non sai, Silvia. Non sapeva, e però intuiva, che quella sofferenza doveva essere bella, come la sua sofferenza di aprirsi una strada con la sola forza della volontà. Io so, invece, non c'è bisogno di essere innamorata per capire. Vinca intanto stringeva a sé le lettere. Queste mi rimangono, diceva. Lo ami ancora? Silvia esclamò stupefatta. La ragazza la guardò dal basso. Ti meravigli, eh? Eppure un malato grave ama di più la vita perché sente che forse sta per perderla. Come potrai dimenticare in un giorno? Perché lui non mi ama più. Non lo so se non mi ama. Forse avrà sposato l'altra perché è ricca. Mi faceva capire che era molto ricca questa Sol. E poi l'importante è che io lo abbia amato, che io lo ami. Ti sembra assurdo? E invece io mi rassegno, pensando che nessuno potrà togliermi questa ricchezza. Ricordi Proust, il nostro Proust, nell'amore non condiviso sarebbe a dire nell'amore. Forse l'ho sempre amato io soltanto, che importa? Io ero la privilegiata. Forse l'ho arricchito con la mia immaginazione. Tacque. Riprese piano. Adesso è finito. Non mi sembra vero. Cerco di convincermi che ha sposato, che un'altra donna vive, mangia, dorme con lui, conosce la sua voce, la sua maniera di baciare. Vedi? La gelosia è soltanto fisica. Il pensiero che un'altra donna porti il suo nome mi è indifferente. Ma il pensiero che un'altra donna conosca certe espressioni dei suoi occhi, le sue mani, mi è intollerabile. Ma forse tutto ciò è una favola. Io non conosco questa donna. Per me è come se non esistesse. Era una cosa così bella. Com'è possibile che sia finita? Negli occhi di Vinca stava una sorta di pazzia lucida. «Sai», continuava, «gli altri hanno tante cose nella vita. Luis sapeva che io non avevo nulla. Adesso tutto ciò che la sua presenza alleviava pesa di nuovo su di me. Mi accorgo di essere sola in un deserto. È destino che io sia sempre sola. Da bambina passavo ore intere seguendo i giochi delle nuvole o infilando le margheritine. Non mi si permetteva mai di accostare altri bambini. Io non so perché ciò fosse precisamente. Mi si diceva che gli altri bambini potevano contagiarmi di malattie infantili e così io ero malata di questa precauzione di bambina sana. Nessuno mai si occupava di me. Ero, dicono, una bambina violenta. Soltanto un giorno tutti vennero presso di me. Le zie mi presero in braccio, io capii che qualcosa di straordinario doveva essere accaduto e invece di rallegrarmi, intimorita, scoppiai a piangere. E infatti era morta la mamma che da tempo era malata e viveva in un'ala remota della casa dove io non potevo entrare perché facevo chiasso. Capisci? Capisci? Fece sorridendo amaramente. Sempre tutto negato. Neppure una risata nel giardino di casa mia. Non fare chiasso, chiasso! Zitta, mamma dal balconcino mi faceva cenno di tacere. Io non ho mai avuto nulla, Silvia, non il ricordo di un'ora dolce prima dell'incontro con Luis, di quando si usciva insieme a passeggiare. Non può essere finito, non può. Silvia, dimmi che non è possibile. E queste? Perché tutte queste allora? Aprendo desolatamente le braccia, mostrò le lettere sparse intorno a lei, poche lettere tracciate di una scrittura disuguale, e riprese a lamentarsi. Oh, porto con me questo destino da bambina. È inutile lottare. Noi spagnoli abbiamo una fede rassegnata nel destino, come gli arabi. Da noi i contadini si siedono per terra, fuori delle case, e guardano il cielo e aspettano. Le mosche calano. Si posano loro sul naso, sulle mani, e quelli neanche si muovono. E poi un giorno scoppia la rivoluzione. Tu non lo senti il destino? Io lo sento come una persona viva, un gigante potentissimo che mi tiene per il braccio, stretta, mi guida dove vuole. È inutile cercare di liberarsi. Forse domani il destino sarà di buon umore. Noi diciamo sempre così, mañana, mañana, domani, e rimandiamo. Bello sarebbe adesso pungersi con una siringa e dormire, magari solo fino a domani. Ho pensato di uccidermi, mi ucciderei, ma non posso, perché c'è Dio. Tu credi poco, vero? Già lo so. Mi puoi dimostrare coi discorsi che Dio non esiste, la terra si è composta da sé e noi siamo scimmie raffinate. Me lo spiegheresti così bene che forse alla fine ti darei ragione. Ah, oh, tu hai ragione, ma io credo lo stesso. Dio esiste, un Dio che ti hanno messo nel sangue fin da quando succhiavi il latte. È come la cicatrice della vaccinazione, la porti finché campi. Dio c'è, è la prova, è questa, che in questo sfacelo di me io ho tuttavia la forza di mangiare, di bere, di parlare. Se no, se Dio non ci fosse, al primo istante avrei dovuto scavalcare la finestra e buttarmi giù. Le amiche si presero la mano in silenzio. Silvia rifletteva che nessuno finora aveva compreso l'animo di Vinca. Nonostante tutti questi suoi patimenti, aveva avuto la forza di rallegrare per loro la vita del collegio. Forse il dio di Vinca esisteva veramente. L'altra continuava a parlare come se fosse sola e tuttavia nei suoi occhi si leggeva una richiesta di aiuto. Che faccio? Si chiedeva. Che faccio? La camera s'abbuiava, i tendaggi creavano ombre paurose. Silvia si alzò per accendere la luce e Vinca, volgendosi, la seguì con la sua domanda: Che faccio? Non torni in Spagna? La ragazza scosse la testa. No. Perché non ci ritorni? Non ho più casa a Cordova, quella è della moglie di mio padre. Preferisco essere straniera qui che a casa mia. La sera loro stanno abbracciati nel patio, si odono risate sommesse e certe volte baci. È la casa dove mia madre è morta, tutto ciò mi è insopportabile. Soggiunse, e a Cordova c'è Luis. Ah, è vero, potresti incontrarlo. Ma Vinca, prendendole la mano, le disse: No, Silvia, ti dirò, andrei a cercarlo, lo pregherei, tienimi con te lo stesso, anche così. Tu faresti questo? Ti pare strano, vero? Ma lo farei, gli direi anche così. Gli parlerei come per farmi perdonare io la sua colpa. Mi disprezzi? Sì, devi disprezzarmi. Anche io mi disprezzerei, perciò non voglio tornare a Cordova, per non disprezzarmi. Una pausa lunga. Si udì suonare il campanello e Vinca sussultò. Qualcuno corse ad aprire. Vinca spiegò a voce bassa: è la posta. Tacque, poi aggiunse: me ne vado, sai, me ne vado di qui. Torni al Grimaldi? No, no, io non posso essere imprigionata. Non è nel mio carattere. Tutto ciò era facile quando avevo Luis. Tante cose erano facili allora. Adesso tutto è cambiato. No, non torno al Grimaldi. Eppure rimango qui. Che rimango a fare? Loro sono chiuse in una vita alla quale io ormai sono estranea. S'ammazzino pure tutti al fronte. Non mi importa più. Sono tanto presa della mia distruzione che non posso neppure preoccuparmi della distruzione del mio paese. L'ho già detto a Donna Ines che me ne vado. Si è messa a piangere. È ingrato da parte mia, lo so, ma credo che neanche verrò a trovarle. Per me qualcosa si è chiuso definitivamente. È stata tanto buona, Donna Ines. Vinca continuava sorridendo. Mi diceva stamani che sposerò un italiano e sarò molto felice, capisci? Sorrideva. Lei forse pensava che io fossi disperata perché era andato a monte un matrimonio. Donna Inés è vecchia e sa che spesso si ricomincia. Non pensa che nessuno sposerebbe mai una straniera povera. Ci vuole molto denaro per farsi perdonare da un marito l'inevitabile indifferenza che tu porti al suo paese, l'incomprensione per le sue idee, le sue abitudini, perfino il gusto diverso dei cibi, non è vero? Tu sei più saggia di noi tutte, Vinca. Io? E Vinca sorrise amaramente. Ma no, ti ricordi al Grimaldi? Sì, Silvia ricorda. Vinca ride, Vinca rientra tardi, Vinca si dipinge le labbra all'uscita del collegio, Vinca non sta mai attenta alle lezioni, Vinca balla il fandango in piedi sul tavolino, le suore entrano e si fanno il segno della croce. E Vinca dice un giorno: ho incontrato un ragazzo spagnolo, andaluso, come me, si chiama Luis. Fuori Silvia si incamminò piano, noncurante dell'aria fredda e secca. Se avesse avuto denari, avrebbe aiutato Vinca. Ma Vinca non si preoccupava di quello. Andrò ad abitare in una camera mobiliata, in un vecchio quartiere. A lui spiacevano i vecchi quartieri. Lavorerò. Che genere di lavoro? Silvia le aveva domandato. Ma che so fare io? Darò lezioni. Vorrei fare delle traduzioni per il cinematografo. Possibilmente, dicono che si guadagna molto. Quello che troverò da fare non importa. La compagnia si sgretolava. Dopo la partenza di Silvia sarebbero rimaste al Grimaldi solamente Valentina e Augusta. Ma quest'ultima ormai viveva isolata nella sua camera in quell'odore di vino e sigarette, accudendo alla tartaruga, odiando il mondo che non voleva accorgersi del suo romanzo. Emanuela sarebbe rimasta lì fino al matrimonio, ma Emanuela non era mai stata veramente una di loro. Ella aveva la vita facile, era facilmente innamorata, facilmente felice. Anna, la sera della laurea, una laurea con 90 della quale era stata pienamente soddisfatta, aveva detto: torno al paese subito perché mi sposo. Poi aveva aggiunto: scusatemi, non ho saputo dirvi nulla prima, contro la mia volontà, non ho saputo. L'amore è per me un sentimento segreto, non avrei potuto fare altrimenti. Parlandone mi sarebbe parso di distruggerlo. Il mio amore per vivere ha bisogno di silenzio. Mario è come me, ancora non ci siamo neppure detti ti amo. È qualche cosa di più, qualche cosa di meno dell'amore. È il senso che qualunque cosa accada, io sono lì per lui e lui per me, senza bisogno di dircelo. Più tardi, aveva spiegato illuminandosi, avremo una grande casa, una grande terra. Dopo il discorso di Anna, Valentina si era levata d'improvviso esclamando ironicamente: ah, l'amore, l'amore, l'amore! E aveva dato in una grande risata nervosa prima di andarsene. Valentina, Silvia pensava, è una ragazza isterica. E però considerava che in fondo, malgrado la confidenza che nasceva da giornate, anni di vita e patimenti comuni, tutte erano rimaste sostanzialmente nascoste in loro stesse. Non si può fare di tante anime un'anima sola. L'anima non si può donare interamente ad altri, né l'anima né i pensieri. Pure, credendo di comunicarli a tutti, qualcuno inevitabilmente resta per noi, senza che ce ne accorgiamo, con qualche tristezza. Silvia s'accorgeva che la vita delle compagne, la vita di ogni essere umano, inevitabilmente gira come un satellite attorno a un pianeta. L'amore. Valentina, dopo che ebbe chiuso ridendo la porta della camera di Anna, dove le amiche stavano raccolte, si trovò sola nel buio con quel suo riso e se ne impaurì. Sgranò gli occhi e restò dietro l'uscio in ascolto. Certo, adesso le compagne avrebbero cominciato a parlare di lei. Ma no, la voce di Anna riprendeva a raccontare della sua campagna, della terra, di Mario. Posa, dice bene sua madre, posa. Sarà andata di notte a vedere la campagna con Mario. Comodo essere vicini, appena una rete di ferro tra le due proprietà. Mario abita solo. Comodissimo. Lo ha incantato, con quei suoi atteggiamenti virgiliani, so bene. Sarà poi di quelle che una volta sposate vogliono abbandonare tutto, andare in città con la pelliccia. Ha i suoi soldi e intanto se lo sposa. Scese le scale a tentoni, disorientata dalla sua angoscia. Questa sì era stata troppo forte. Anna aveva saputo tacere fino ad oggi. Zitta era stata. Contadina, proprio contadina. Chissà che lettere le scrive Mario. Deve essere molto innamorato per non vederla com'è. Sembra fatta di mollica di pane. Lui affogherà in quel grasso. Tra 2 anni al primo figliolo Anna diventerà enorme. La casa, la terra, storie, fandonie, quello che voleva era il marito. E ce l'ha fatta. Nella stanza accese la candela. Maledette suore spilorce! Mostruosa contro la parete bianca si proiettava la sua ombra, vi si stendeva, si piegava alla sommità e la testa si affacciava sul soffitto. La ragazza masticava una grande amarezza. Si sentiva schernita da quella frase di Anna. Mi sposo. L'aveva detto semplicemente, senza abbassare la fronte, alta e ampia. Ma in quella semplicità era molta fierezza. Parlando non la guardava neppure. Certo, Mario aveva scritto ad Anna di quella lettera che lei gli aveva mandato da Roma. Egli le aveva risposto con una cartolina appena. Contadino anche lui. Uno zimbello era stata. I due si parlavano appena davanti a lei e poi di notte, certo, Anna cauta sgattaiolava per i prati fino alla casa di Mario. Non si spiegava altrimenti questo matrimonio affrettato, questa cosa segreta, misteriosa. Forse Anna era incinta. Lenta cominciò a spogliarsi. Si spogliava con movimenti goffi, ripiegava la biancheria, nascondendo gli indumenti più intimi sotto il vestito grigio. Poi, rabbonita, mormorava. Vado a letto a pensare. Ma non poteva liberarsi da questo chiodo fisso, il matrimonio di Anna. Sulla parete anche l'ombra si spogliava con gesti smisurati, mani enormi che racchiudevano nulla. 20 anni. Ma già a 20 anni si prevede come va a finire la propria vita. Avrebbe sempre abitato una camera come questa, sola, libri sul tavolino, ragazzi, petulanti ragazzi che studiano, passano, vengono, vanno, senza fare altro che deridere la signorina. Chi non ha deriso la signorina? Alla fine del mese mandare a mamma quei pochi soldi che le sarebbero serviti per farsi trattare meglio dai fratelli, che non le dessero da mangiare sprezzantemente come le ossa al bracco che attende bavando. Piuttosto che vivere così. Meglio non essere mai nata. Non è giusto che la sia nata sottomessa, povera, e altre ricche e libere come Manuela. Spogliata si avvicinò allo specchio e per meglio vedersi prese in mano il candeliere. A sprazzi, in quella luce tremolante, il suo viso si ravvivava quasi per un improvviso affluire di sangue. Il calore della fiamma le lambiva il viso. Alzò il candeliere al di sopra della testa e il suo viso si mutò e impallidì. La luce, cadendo dall'alto, le scavava fosse livide sulle gote e gli occhi chiari sembravano incupire. Bella, pensò, appena un po' troppo grassa. Con l'altra mano tolse la forcina dai capelli e lasciò che scivolassero sul petto. Bellissima! Non poté a meno di rievocare quella regina che traversò la città sul suo cavallo vestita dei soli capelli. Questo pensiero li invitava. La regina si chiamava Isabeau, doveva somigliare a lei. Isabeau. Si carezzò la gola, il mento dove la pelle era più delicata e bianca, bianchissima, non la pelle rude di Anna. Se Mario l'avesse vista così, mezzo spogliata, con quei capelli biondi, le avrebbe detto certo: dammi la tua lampada. Fece ferma davanti allo specchio, con quel braccio alzato le parve di stare a compiere un misterioso rito. Pazzie! La bellezza dura poco, gli anni corrono, corrono, passano, scivolano via come rena tra le dita. Che cosa conta la bellezza? Abbassò di nuovo la luce, la posò sul tavolo, restò la mano sul paralume a pensare. Pazzie, sì, pazzie! E cominciò a ridere piano piano, accarezzarsi i capelli con lentezza. Guardava le pareti come se volesse penetrarle. Chissà se le altre, come lei, si guardavano a lungo nello specchio. Nessuna aveva mai voluto la sua intimità. Si accorgeva d'essere, nel gruppo delle sue compagne, una figura secondaria. Sempre così. Figura secondaria. Rideva, rideva, e pensava che sarebbe stato bello cadere morta per terra in mezzo ai suoi capelli biondi. Prese la cinta del vestito, una cinta di pelle, e si strinse la vita sopra la camicia leggera, forte, sempre più forte, fino a farsi male. Poi l'avvolse attorno alla gola e strinse, strinse, fino ad averne il respiro faticoso. Allora, leggermente, gli occhi allucinati, senza più ridere, cominciò a graffiarsi la pelle delle braccia. Bella pelle liscia, fine, e poi, distogliendo lo sguardo, prese a mordersi anche, piano. Quante ragazze facevano altrettanto nelle loro stanze? Chi immaginava che lei stesse facendolo? Forse nessuna è simile a me. Certo, a nessuna sono dati così spaventosi e dolci sogni la notte. Stanotte avrebbe immaginato di passeggiare per la città coperta dei soli capelli come Isabeau. E infine la porta si schiudeva e appariva il principe indiano. Godeva di trovarla così discinta e bella, egli amava la morbida seta dei suoi capelli. Vestiva di azzurro il principe, una perla gli tremava sulla fronte, tinnivano i bracciali d'oro ai suoi polsi, e la indietreggiava contro la parete, si ritraeva, il principe stasera le faceva paura. Sentiva che non era un uomo vero, che sarebbe scomparso di colpo, annegato nel sonno di lei, dileguato come un'ombra, e al mattino non l'avrebbe trovato accanto a sé. Un essere inesistente, il suo uomo, fatto di nulla, d'ombra e di desiderio. Non poteva liberarsene. Era in lei, lei stessa, gli dava vita. Oggi, domani, sempre, un connubio misterioso. Questa strana immagine, quest'uomo vestito da orientale, la ossessionava da quando era bambina. Da allora veniva ogni notte a trovarla. E lei era sua, sua, di lui. Mai di altri avrebbe potuto essere che del fantasma. «Lasciami! Lasciami!» La ragazza avrebbe voluto urlare, ma il suo grido era fatto di nulla, come l'uomo. Le parole che gliele diceva nascevano e si spegnevano in lei. Indietreggiava e lui la seguiva, insistente, sorridendo con un falso sorriso sui denti di vetro. Tendeva verso di lei le sue mani adunche e brune e la udiva sempre più da presso il tintinio dei bracciali e diveniva nei suoi orecchi un ronzio addirittura. Si rifugiò nel letto, vi si nascose, rialzò le coperte fin sopra la testa, ma egli, che era fatto d'aria, la raggiunse anche lì sotto. Le mise le mani sui capelli, le parlò come per ammansirla. Così, da tanti anni, al paese, mentre la mamma dormiva, egli entrava ugualmente e disponeva attorno a lei i suoi scenari. Adesso, alle parole di lui, Valentina avrebbe perduto la volontà. Avrebbe dimenticato tutto e si sarebbe abbandonata. E al risveglio non lo avrebbe trovato più, creatura della sua fantasia notturna. Ne soffriva per tutta la pelle. «Lasciami! Lasciami!» Ma restava lì, unita a lui, sposata a lui. Sì, proprio così. Ella era, per destino, fin da quando era nata, la sposa di quest'uomo d'ombra. Ansava, singhiozzava, il suo petto ne era scosso, sentiva che mai avrebbe potuto sottrarsi a lui, nessuno avrebbe fatto mai nulla per liberarla. Se un uomo vero fosse venuto verso di lei, ella sarebbe stata salva e il principe si sarebbe dissolto. E invece così ogni notte egli tornava, coi fantasmi dei suoi giardini, dei suoi tappeti, con le sue parole, i suoi denti e quella musica lontana. Dagli occhi chiusi lacrime sfuggivano e colavano sul viso della fanciulla e al suo pianto il principe sparì. Silvia era stanca. Piombavano su di lei inerte tutte le passate ore di fatica. Adesso che le era necessaria la massima energia per cominciare, avrebbe voluto invece sedersi vicino al fuoco a casa sua e dormire. Sua sorella Immacolata aspettava un bambino e Silvia si sorprendeva a invidiare la sorella, che sedeva placida, senza pensiero, mentre una vita nuova si maturava in lei. Immacolata sorrideva, cantava, poi taceva a lungo, occupata in lavori femminili, alzava la testa e immobile guardava lontano verso le montagne, seduta sulla porta di casa, lasciando che intanto le sue mani andassero. Che pensi? Silvia le aveva chiesto nelle vacanze quando era a casa e quella aveva risposto sorridendo: Io non penso mai. Alla cremente andavano le mani, il figlio poteva trovar vita anche se lei non pensava, si formava in lei con la materia soltanto, distaccato dalla sua anima. Anche Silvia avrebbe voluto sedersi senza pensare, attendere che la vita maturasse, le si donasse, pronta. La sua mente invece non aveva mai un attimo di tregua, sempre si chiedeva la ragione di tutto. Ora la partenza di Anna aveva finito di dividere le amiche. Emanuela era tornata da Firenze molto cambiata, discosta, diversa, una donna. Doveva avere molto sofferto per la morte del padre, eppure non ne parlava mai e il suo umore era leggero. Avevano ripreso ognuna la propria solitudine, come appena arrivate, prima di accostarsi. Non erano più che quattro. Vinca, lasciata la casa di Donna Inés, abitava in subaffitto in una casa fredda oltre il Tevere. Nessuno aveva avuto il coraggio di andare a trovarla. Emanuela respingeva l'idea di questa visita, diceva: Poi, poi,